24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca! Mi voglio rivolgere alle ragazze che hanno la mia stessa età, alle mie coetanee, alle ragazze che ambiscono questo mondo, di stare molto attenti a questi concorsi, agli sciacalli che si fanno infatuare e soprattutto ai concorsi di farsi accompagnare da entrambi i genitori. Brava, entrambi brava, i genitori. Brava, brava, brava! Brava, era Francesca Pascale del 2004, la fidanzata di Silvio Berlusconi, che nel 2004 in questa intervista ad Alda Deusagno, rispolverata nella rete, ieri annunciava e diceva: fatevi accompagnare, che ci sono gli sciacalli a queste... a questi concorsi per Miss che si fanno infatuare, si fanno infatuare. Andate con entrambi i genitori. Francesca Pascale, la fidanzata di Silvio Berlusconi. Buongiorno cari italiani, le 6:32 minuti. Stamattina stavo arrivando molto presto, ho visto un capannello di persone in una piazza a Milano, 10, 15, 20 persone, ho detto: ma fermo la macchina, mi avvicino, dico: Di che state parlando? Confabulavano tutti. Di che state parlando? Delle nomine dell'ENI e dell'ENEL. Interessano anche a voi queste nomine dell'ENI, dell'ENEL, di Finmeccanica, delle Poste? No, perché io quando, per carità, sono nomine importanti, ma quando vedo le prime 10 pagine del Corriere della Sera dedicate alle nomine dell'ENI, dell'ENEL, delle Poste e di Finmeccanica e Moretti da qua va là, e le donne, ha messo 3 donne, però le ha messe presidente, mentre il ruolo più importante esecutivo è quello di amministratore delegato, quindi le ha messe ma a metà. Secondo il Corriere, vabbè, insomma. Alle 6:33 minuti, saluto Elisabetta Fusconi, oggi in redazione, sbrandatissima, insieme al nostro alpino Peter Bescapè, che dorme qui praticamente sul mixer. Apri il Parlamento, caro alpino. A un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Ovviamente, ovviamente. Allora, questo sarebbe il rumore della moca, della moca. Saluto subito intanto colui che ha accompagnato molte ragazze da genitore alle sfilate, alle Vincino, insomma, quella roba lì. Vincino, tu hai accompagnato, ovviamente. Non lasceresti mai tua figlia andare a un concorso di bellezza? L'ho accompagnata. No, non è vero, questa te la sei inventata adesso. Ti assicuro, guarda, la figlia che ha studiato a Londra e ha pure fatto un concorso. Ma che concorso? Assolutamente. Che concorso? È un concorso di bellezza. Ma questa te la sei inventata al momento. Te la sei inventata al momento, dai, di la verità. Prometto che non me la sono inventata. E l'hai accompagnata? E l'ho accompagnata. E com'è andata? Sì. Beh, è arrivata credo terzo, quarta, no. Ma a quale concorso? Ma dai, eravamo d'estate. No, ma io non è che rido perché dubito, cioè sarà è bellissima, non la conosco, ma sarà una bellissima ragazza. È bellissima, ma anche alle ragazze, oggi anche alle ragazze quelle un po' intellettuali e così, gli piaceva fare queste cose. Ah, vabbè. No. Non voglio approfondire, ma magari approfondiremo. Allora, fammi salutare la nostra direttorissima Aurora Lussana, direttore della Padania. Come va su in Padania? Ecco. Buongiorno, tutto bene. Come sempre, lo sai che noi a Radio Padania, insomma, abbiamo tanti ascolti e tanti amici che seguono anche voi di Radio 24. Oh, quindi salutiamo anche loro. Che bella questa, noi salutiamo tutti gli amici di Radio Padania. Come si salutano? C'è un saluto convenzionale? Ah, il tutto perché non vuoi chiedermi se io ho mai partecipato a un concorso? No, ma infatti questa era la domanda, stavo tenendo un po' l'attesa, un po' così. Aurora Lussana certamente ha partecipato a qualche concorso. No, purtroppo no, un grande trauma della mia vita. Mi ero iscritta a Miss Padania, ma ovviamente sono stata scartata immediatamente. No, neanche le prese. Avevo studiato tutto. Ma cosa dovevi studiare? Scusa, cosa c'è da studiare? Storia Longobardorum. Cos'è che avevi studiato? Cioè, perché a Miss Padania non è che le fanno sfilare solo in costume, no? No, c'è questo compendio sulla storia Longobardorum. La storia Longobardo. Storie e tradizioni locali. Certo. Ero preparata e tutto, ma c'è un girovita che non mi ha permesso di partecipare al concorso. Ah, quindi tu passavi, diciamo, quindi non ho trovato gli sciacalli che ha trovato la Pascale. Ah, benissimo, benissimo, insomma. Ma se no ti avrebbe accompagnato l'Ermanno. Sì, ciao. Salutiamo l'Ermanno, l'Ermanno. Mi tirava sotto col camion, guarda. L'Ermanno col suo camion va alla Ura Barbù, sì. Che è il papà di Aurora Lussana. Un grande, grande saluto, grande abbraccio. Va bene, allora. Caro Vincino, tu giustamente dirai che le nomine sono le nomine migliori che potesse fare Renzi. Lui ha riunito praticamente tutti i sindaci d'Italia, sì. E insieme a loro ha verificato quali sono le donne migliori per poterle mettere. Sì. C'è pure il Corriere della Sera, ancora è rimasto come cosa. Infatti, infatti la Lussana potrebbe anche andare al Corriere della Sera? Assolutamente, come direttrice, assolutamente sì. Ma insomma, non è la mia preferita, però. Per il tuo giornale preferito potresti volere Aurora Lussana. Intanto potresti... No, ho detto non è la mia preferita, però no, come dire, ha le caratteristiche, insomma. Cioè quali sono le caratteristiche? È donna, parla in italiano più o meno. Sì, in padano anche. In padano, sa scrivere, sa fare un po' di conto, fare un po' di conto, questo è del curriculum per diventare direttore del Corriere della Sera. È fondamentale il Corriere sapere fare un po' di conto. La futura direttrice. Ecco, ah, no? va bene. Va bene. Ma al di là, queste nomine, ma io veramente leggere 7, 8, 9, 10 pagine sulle nomine, editoriali, commenti, ma per carità, sono nomine importanti, sono aziende strategiche. Aspetta un attimo, mi è saltata la luce già. Mi è saltata la luce. A poche ore dalla nomina è già il delirio. Aurora Lussana, tu dalla Padania come le vedi queste? Cos'è che titolate oggi? Avete Renzi? Cos'è? Eccolo qua. Neocentralista, ma perché per le nomine? No, ma che vi frega? No, perché ieri pomeriggio c'è stato questo incontro importante tra gli enti locali, le regioni, le comunità territoriali, il governo, e abbiamo scoperto che l'obiettivo di Renzi, neocentralista, che rivuole probabilmente la signoria di Firenze, vuole cancellare il terzo comma del 116, che tradotto è quell'unico appiglio costituzionale che gli autonomisti hanno per rivendicare un'autonomia differenziata, il federalismo differenziato, vuol cancellare tutto. Ragazzi, ma la notizia del giorno, come sono fatta a perdere? Perdermi questa notizia? Sono territori che rivendicano ampia autonomia perché sono capaci di gestire in maniera responsabile le proprie risorse. E quindi l'accusa è questa, neocentralista! Renzi. Ci siamo ispirati al suo bel viso con un po' di nei, quindi. Ma infatti ha più nei di Bruno Vespa ormai, non sono visibile. Sì. Ma non è uno scherzo. Avete ritoccato la foto, gli avete aggiunto. Invece sulle nomine c'è poco da dire. Ovviamente lui usa sempre questo scudo femminile che è molto comodo, perché insomma lui ovviamente ha questo criterio del fenotipo femminile, cioè è fenotipico, nel senso che lui è fenotipico, vuole fenotipo femminile, lui premia le donne, così è uno strumento di difesa che ha. Sempre un po' triste da parte delle donne avere così in maniera paternalistica quello che ti nomina. Capito, Vincino? È fenotipico. Sembra il fenotipo. Certo. Il criterio sulla zona di femminile, allora sta sfogliando. No, Aurora sta sfogliando il vocabolario. È arrivato a fofo. Ancora sto facendo da mangiare. No, Vincino, su fenotipico, c'è lì un vocabolario, sta sfogliando, è arrivato a comunque, caro Vincino, dove deve andare la prossima volta a fare le nomine? Dove deve andare? Allora, oddio, temo. Allora, no, va va fuori da una ginecologa lì nella sala d'aspetto, chi c'è e va bene, se è quello il valore. Eccoli, caro Vincino, c'è la polemica sulle donne portata avanti. Ma da me non puoi dire ho nominato una perché donna, perché a livello fenotipico fenotipico. Ma dai. Vabbè, ma ho capito. Vincino, di qualcosa. Sono state discriminate le poverette, no? Come dire, non ce n'era quasi una, nemmeno una, alla presidenza o come amministratrice delle delegati, ancora poche, bisogna dire, no? Dove c'è il potere serio, vero, ha preferito rimanere sul sicuro e lasciare quelli vecchi dell'azienda, no? Per questa cosa qua. Non sono mai contento. Infatti, ma che dobbiamo fare? Non mettere le donne. Ho parlato ieri sera con Berlusconi di questo. Sì. Non sono mai contente. Per esempio, una delle donne simbolo sicuramente del governo è il ministro Boschi. Allora, sentite, ha fatto uno spot per lanciare il candidato pugliese del PD a Bari, lo spot della Boschi. Allora Antonio, come sta andando? Sta andando bene, la città è fantastica, i baresi sono fantastici. Ma ti immagini qualche mese fa se ci avessero detto che io avrei fatto il ministro e tu il sindaco? Non mi far fare gesti scaramantici. Dai, che lo sanno tutti che vinci tu. Sei più bravo, ma stai rottamando un po'. Rottamazione gentile. Credo che adesso però sia arrivato il momento di andare a mangiare un pezzo di focaccia. Come la chiami tu? Focaccia? Focaccia o schiaccia? E allora che ti devo dire? Shamanin! Eccoli, Vincino, ti prego, di qualcosa. È lo spot Shamanin. Ma dalle voci io non ho visto le facce. Proprio imbranati tutti e due, uno più dell'altro. L'hanno fatto rifare 20 volte, secondo me. Sì, abbastanza. Il candidato sindaco Antonio De Caro e il ministro Boschi. Che c'hai, Lussana? Tu la Shamanin, non mangi? Non so cosa vuol dire. Focaccia in barese. Focaccia. Ah, schiaccia. Vabbè, insomma. Sì, si è lanciata così il ministro Boschi. Vabbè, doveva fare questo spot. Che doveva fare così, va bene. Io sono sempre molto incuriosito sono usciti gli stipendi, no, i redditi dei parlamentari. Dite la verità, che anche voi vi è, Vincino, quanta invidia hai provato ieri a leggere? 0000, tantissimo, guarda. Sì, ci sono 51 nulla tenenti. Però c'è anche chi guadagna, non so, 4 milioni e mezzo. Berlusconi è sceso da 35 milioni dichiarati a 4 milioni e mezzo. Ma che è successo, Vincino? Questo è successo per dire: io non metto soldi nella campagna elettorale, non mi rompete le scatole, non c'ho più una lira. Ah, ecco, dici. Questo è preventivo proprio. È preventivo. Guardate, poi fai il ravvedimento tra un mese, fai il ravvedimento e dice la verità: 25, no. 35, 43, no, no, 100 no, milioni, no, perché se scriveva 100 milioni doveva uscire tutti i soldi lui. I leghisti come stanno messi, Aurora? Non l'ho visto, ma insomma nella media. Senza parole. No, vabbè, ma sempre invidiare la gente che ha i soldi, No, io ma se uno ha un lavoro dignitoso, ha due gambe su cui camminare, due braccia, più o meno anche la vita va bene. Oh, brava Aurora, brava, ti faccio un applauso, evviva! No, perché invidiare il 1.700.000 di Yoram Gutke? Ma no, ma non è un autorismo mio, ci mancherebbe, che c'ha i soldi, li spende, fa la bella vita, sono contento per lui, le cose belle ci piacciono. Ma certo. Però non è che sto lì a dire quelli cosa guadagno, ma nei massi certo. Guardo altre cose. Nei maschi, Vincino ha detto: nei maschi guardo altre cose, non i soldi. Cioè? No, adesso tutti in silenzio, e come se ne esce Aurora Lussana da questa situazione? No, guardo la macchina, va bene. Sì, la macchina, non guardo i soldi, ma guardo la macchina. Comunque, perché invidiare 4 milioni e mezzo di Angelucci, 1.700.000 di Gutke, 3 milioni e 6 di Gregorio Gitti? Io invidio invece, per esempio, sai chi, Vincino? Sì. L'onorevole Nuti del Movimento 5 Stelle, che alla domanda Stato civile ha risposto Nubile. nobile, ma come, sei un uomo? Oppure un altro, l'onorevole Cozzolino, no, l'onorevole, vabbè, un altro, insomma, del Movimento 5 Stelle, che la domanda, stato civile italiano, ha risposto, poi ha cancellato, ha scritto sposato, Gallinella, Vincino, questi sono da invidiare, l'ho già notato, stato civile italiano. 24 mattino. Caro Milan, una cosa sola voglio dire. Io, Marco, voglio bene a Marcello Dell'Utri. Renzi sa che in Sicilia pagare il bollo e l'assicurazione delle automobili è un optional. Renzi sa che in Sicilia tutte le partite IVA debbono pagare il pizzo. Renzi sa che in Sicilia se un cardiologo incassa in nero 1000 euro al giorno, così li spende, 850 euro per i suoi capricci, 140 euro per il pizzo, 10 euro per le imposte. Atmi e spese, Renzi venga incognito in Sicilia e verifichi lui diviso questi segreti di Pulcinella. Ciao Milan, buongiorno. Volevo fare un commento su Buonaiuti. Una persona per bene, forse uno dei pochi, una delle poche persone per bene che Berlusconi aveva a fianco. Peccato, sono demoralizzato, io sono un berlusconiano da tanti anni, sono demoralizzato, sta spogliando di tutte le persone per bene. Sono bravi questi politici a riempirsi la bocca di queste parolone grandi, una cosa che è indecente, mi piacerebbe che si riempissero la bocca con 1300 euro al mese spaccandosi la schiena, e non andare a zappare o con dei forconi o con delle vanghe, ma a spostare dei sacchi di sabbia, sacchi di farina, spostare, far della fatica, spaccarsi la schiena. Ciao Milan, ciao Forchelli. Eccolo lì, salutiamo anche noi. Forchielli tornerà, credo il 18 maggio, sta in America, non l'abbiamo rottamato. Forchielli torna tra noi, questa casa aspetta te. Ah, io ovviamente ho detto Sciamanin, Sciamanin vuol dire andiamo, dai, su, andiamo. Hai visto che anche te non lo sapevi, che focaccia. Ma secondo, andiamo a mangiare la focaccia, no, la schiaccia, la focaccia. Che diceva la Boschi? Vabbè, allora, tutti avete sentito, Dell'Utri, sicuramente Vincino adesso dirà qualcosa di intelligente su Dell'Utri, voglio giudizio tutti in rigoroso silenzio. Dell'Utri, che dovrebbe fare, caro Vincino? Che ti pare di questa storia? Prima bisogna vedere se è lui o il gemello là. Ecco, vedi, già loro vedi da questa... quando erano a scuola, dalla prima media, si scambiavano sempre il ruolo, sono precisi proprio, basta che uno si tinge un po' di più, fa lo sguardo un po' più cattivo e l'altro si leva lo sguardo scemo, ma lo sanno fare tutte e due, lo sguardo scemo e lo sguardo coso. No, vedi già una lettura che noi Aurora Lussana non avevamo mai pensato. Cioè, potrebbe essere il gemello intanto. Esattamente, perché solo quello scemo poteva andare alla carta di credito, cosa, quattro telefonino, tutto preciso. Quello intelligente l'avrebbe fatta molto meglio. A parte questa lettura potrebbe essere il gemello, lettura. Nessuno ci ha pensato. Che succederà secondo te a Dell'Utri? Rimarrà lì? Perché guarda che è più facile che rimanga in Libano. Poveretto, guarda, non glielo invidio, ma là è terribile, non è che dopo tre giorni è una noia mortale, ma là rischia una cannonata, ma là rischia di fanno saltare in aria l'albergo, è molto peggio, come dire. Uno non può posteggiare, pam, autobomba, cannonata. Questi luoghi comuni anche un po' tristi. Ma guarda che saltano ancora, non ti credere. Ho capito. E poi c'è la Siria accanto dove buttano i gas. E non si sa chi, i ribelli, Assad, come dire. Insomma, non prevedi una bella vita comunque se rimane. Assolutamente no, guarda, gliela consiglio qua. Aurora, tu questa storia che vi frega voi della Lega, di questa storia di Dell'Utri? No, torna. Poi c'è Alfano che sai, ministro dell'interno, insomma, questa missione, no? Portare. attraverso il Mediterraneo, tutta l'Africa. Oh, eccola lì, ecco, tutta l'Africa, tutta l'Africa, figurati, porta il dell'Utri. Dai, vi voglio far sentire il Brunetta del giorno, c'è il Brunetta del giorno che è... di stamattina, no. Perché ieri dopo l'incontro Brunetta ha cambiato tutto. Vabbè, ma non so, non ha fatto dichiarazioni in audio, sentite come parla delle sue macchine. Io posseggo una Lada Niva di 20 anni, è un macchinone Fiat sovietico, motore 1.6, bellissima, meravigliosa, non la uso mai, ma è un oggetto di culto. E ho anche una 500 del 68. Come mai questa passione? È passione per chi non sa guidare, come sottoscritto, per chi non è capace di guidare anche se ho la patente da 40 anni, evidentemente le macchine sono un oggetto e non servono per andare... Oh, potresti, cara Aurora, essere affascinata da Brunetta, visto la macchina, dici guardi la macchina, gli uomini, insomma c'è una... Vabbè, ma non sa guidare. Ho capito, però la macchina ce l'ha, insomma adesso vuoi proprio tutto. Vuoi proprio tutto. Anche perché da come guida un uomo si capiscono molte cose. Vincino, questo mi interessa. Sì. Per esempio, cioè una guida irruente e di quelle un po' aggressiva? No, bisogna guidare bene. Vabbè, allora una guida precisa, compassata. I maschi che smanettano non guidano bene. Che smanettano non guidano bene. Vabbè, no, voglio solo approfondire la ricetta del giorno. Forza Aurora, cosa stai cucinando? Dai che è martedì. Qua abbiamo la settimana servito. Di Pasqua, quindi sì. Comincia la passione del Cristo. E anche la mia, no, una minestrina di riso con dei fegatini di pollo. Sì, un po' di prezzemolino tritato e il grana padano, ovviamente. Ovviamente. Cucinato tutto adesso alle 6.50, così questa sera quando arrivi a casa è già tutto pronto. Devi solo scaldare. Come te li vedi, Vincino, i fegatini di pollo riscaldati tra 12 prima mattina? Ma sono dentro la minestra di riso. La prossima volta chiamami con un altro che cucina altre cose. già non stavo bene. Ora la minestra... devo lasciare, guarda. No, la minestrina con i fegatini di pollo, effettivamente anche a me a quest'ora ha messo avevo una nonna dalle parti di Savona, era un dramma. Insomma, va bene, dai, vi devo salutare. Grazie Aurora Lussana, direttore della Padania, e Vincino, grazie per essere stati con noi. Seguite le sue vignette sul Foglio, sul Corriere della Sera, sempre il grande Vincino. Alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:17, cari italiani, pronti a leggere i giornali con voi. Vi ricordo il tema che approfondiremo oggi. Beh, insomma, Renzi, nel nominare i nuovi vertici delle società partecipate dallo Stato, ha ribadito la voglia di lottare contro la burocrazia, una violenta lotta, ha detto nei giorni scorsi, contro i mandarini di Stato, contro gli alti papaveri di Stato. Ce la farà anche sulla questione degli stipendi, ha detto proporremo stipendi per i responsabili di queste società, Eni, Enel, di 289 mila euro, insomma un tetto che rispetto agli stipendi di prima è sicuramente molto limitato. Ne parleremo con il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, con il presidente della provincia di Pesaro Urbino del PD, Matteo Ricci, anche vicepresidente del partito, il Partito Democratico. E avremo con noi anche Massimo Villone, oggi costituzionalista, ex senatore, colui che la campagna e la lotta alla burocrazia ha provato a farla, tutto scritto anche in un libro con l'ex senatore Salvi. non è andata benissimo, è stata una campagna, una lotta abbastanza solitaria. Comunque ne parleremo più avanti, ora i giornali. In questo martedì 15 aprile, intanto i titoli, il Sole 24 Ore, come molti giornali apre sulle nomine, società pubbliche, rinnova i vertici, nuovi amministratori delegati, De Scalzi all'Eni, Staraci all'Enel, Moretti a Finmeccanica, Caio alle Poste. Le nomine contrastate di Renzi, questo è il titolo del Corriere della Sera, tre presidenti donne, Moretti a Finmeccanica, Caio alle Poste. Repubblica, nelle aziende di Stato arrivano quattro donne, Renzi vede Berlusconi. Per La Stampa, nomine le donne ai vertici. Il Messaggero, nomine la carica delle donne. Come vedete sono abbastanza simili i titoli. Finmeccanica, Piazza Pulita, questo è il titolo invece di apertura del Secolo XIX. Nomine, rivoluzione rosa, così apre il Giorno, mentre l'Unità, società pubbliche, cambia tutto. Il Manifesto invece titola così, in nomine Renzi. Mentre l'apertura di Libero è questa, cretini senza divisa, il mondo alla rovescia. Libero se la prende sulle manifestazioni di sabato dicendo stanno facendo passare i violenti per vittime e i poliziotti per violenti. Mentre il Fatto Quotidiano, Moretti e Marcegaglia, il vecchio rovina il nuovo, sempre sulle nomine. Il Giornale, Berlusconi Renzi, atto secondo, questo è il titolo. Mentre Avvenire ha un titolo sulla vicenda di cronaca del Pertini di Roma, lo scambio di embrioni. Il titolo è molto forte, è molto provocatorio. E l'Italia capì, l'eterologa, dopo lo scambio di embrioni scattano le ispezioni. Beh, questa è una vicenda di cronaca che se riusciremo approfondiremo ancora, perché certamente ci sono ancora tante polemiche. Voglio partire però, lo avete sentito e c'è su tutti i giornali, la classifica ogni anno, le dichiarazioni dei redditi dei politici, tutti a spulciare quanto guadagna l'uno, quanto guadagna l'altro, quanto guadagna Berlusconi che crolla da 35,4 milioni dichiarati nel 2011 a 4,5 milioni dichiarati nel 2012. Beh, sempre, è sempre il numero uno come dichiarazione dei redditi, ma è tallonato da Antonio Angelucci, editore di Libero, che guadagna e denuncia 200.000 euro in meno di Silvio Berlusconi, ma ci sono anche i milionari dei palazzi, trovate le classifiche ovunque, io la leggo per esempio a pagina 13 del Corriere, redditi, l'ex cavaliere perde quota, e ci sono 51 parlamentari nullatenenti, ovviamente questa è la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, 2013, prima dell'inizio della legislatura, quindi non è che occultino i soldi. E quindi gli altri milionari dei palazzi, in Senato Renato Turano, che è eletto all'estero, credo in Canada, 2.900.000 euro. Nicolò Ghedini, l'avvocato di Berlusconi, 2.173.000 euro. Alfredo Messina, 1.082.000. Salvatore Sciascia, 1.010.000. Poi ci sono chi ha le case, chi ha i possedimenti terreni, chi ha le macchine. Vi potete sbizzarrire, eh? Il Fatto Quotidiano dedica due pagine a questo. Berlusconi il più ricco, secondo Angelucci, 51 poveri a reddito zero. Poveri ovviamente tra virgolette. Ci sono anche le curiosità, il grillino Nuti alla domanda stato civile ha scritto nubile, ma come nubile, poi non lo so, forse ha corretto in celibe, non lo so, comunque nubile. Mentre un altro grillino, l'onorevole Gallinella, alla domanda sulla casella stato civile italiano ha risposto, poi ha corretto, ha cancellato, ha scritto sposato. E poi ci sono le interviste, per esempio al deputato Roberto Fico, molti dei cosiddetti nullatenenti sono del Movimento 5 Stelle, la prima esperienza parlamentare, prima molti di loro non facevano un lavoro. Roberto Fico, intervistato da Alessandra Rachi sul Corriere della Sera, pagina 13, dice: prima di entrare alla Camera ho vissuto di rendita. Risulto nullatenente, ma ho una casa a San Felice Circeo a metà con mia sorella, comunque di proprietà, per il resto non ho una macchina, non l'ho mai avuta e questo è tutto. certo, ho lasciato, ho deciso di vivere di rendita dopo aver lavorato in un call center della Vodafone, poi ho fatto il direttore di un grande albergo a Napoli, poi ho deciso di aprire una partita IVA, importavo tessuti dal Marocco, ma come tutte le start-up ho avuto bisogno di un po' di tempo, non ho fatto troppi profitti e per questo nel 2012 ho deciso di chiudere tutto. Oppure Il Giorno intervista il deputato considerato più povero, anche in questo caso nel Movimento 5 Stelle, il deputato più povero è Giuseppe Brescia. Che cifre in Parlamento, prima io ero senza un soldo. Sì, è vero, sono stato poverissimo, senza un soldo, comunque la metà del nostro reddito, come sa, noi la restituiamo e dovrebbero fare tutti così. Mi sono laureato in scienze della formazione, mi occupo dei più piccoli, con la mia fidanzata nel 2011 abbiamo deciso di andare in Australia a vedere se quel paese ci poteva offrire possibilità di lavoro, visto che ho là ho parenti da 43 anni partiti da Bari, ma poi sono tornato indietro e stava maturando la mia candidatura al Movimento 5 Stelle. In Italia mai lavorato, contratti a termine, solo questo, di tre mesi in tre mesi, niente che ti aiuti a costruire un futuro, una famiglia e qualcosa. Vabbè, e poi dice: qui non si accumula nulla. Comunque, fare il parlamentare costa. Come costa? Beh, adesso i costi della politica, sì, che devono assolutamente diminuire. Il fare il parlamentare costa, dice Giuseppe Brescia al Giorno intervistato. A proposito di stipendi, mi ha molto colpito un articolo di Monica Guerzoni sul Corriere della Sera che racconta il travaglio di Sandro Bondi. E voi dite, vabbè, chi è? Che c'entra? Cioè, non chi è? Che c'entra? Beh, c'entra, perché il travaglio di Sandro Bondi, così come il travaglio dell'ex portavoce Paolo Bonaiuti che ha lasciato Berlusconi, eccetera. Ma il travaglio di Sandro Bondi si materializza poi in un colloquio con la moglie di Sandro Bondi, la senatrice Emanuela Repetti, che Monica Guerzoni mette sul Corriere della Sera, pagina 10 e 11, e che, sotto il titolo Il travaglio di Bondi che preferisce la poesia, a un certo punto Manuela Repetti, la moglie, dice, ma risponde al suo cellulare, al cellulare di Bondi, e dice, beh, è appartato, è amareggiato, Sandro è deluso. È deluso dalla politica, non si riconosce più in Forza Italia, non si riconosce più in questo partito, ha deciso di rimanere fuori. E poi arriva questa frase che mi ha fatto sobbalzare: in pratica si è ritirato, non va in Senato da novembre. È una scelta di vita, di riservatezza, di rigore, di serietà. E io ho detto, ma come di serietà? Ma da novembre non va al Senato? Una scelta di vita, di rigore, di riservatezza. E lo stipendio! E quello invece lo prende, perché è irrinunciabile. E com'è possibile? Va bene, siamo un paese in cui facciamo passare per una scelta di riservatezza, rigore e serietà non mettere piede al Senato da novembre per frizioni all'interno del suo partito. Non capisce più il partito, non capisce più Forza Italia, non capisce, è deluso da questa politica. E quindi per serietà non si presenta più nel proprio posto di lavoro da novembre. E adesso datemi del qualunquista, del demagogo, ma io veramente capisco che il mondo a volte va alla rovescia. A proposito di mondo alla rovescia, faccio una capriola per raccontare brevemente quella che è la polemica sulle manifestazioni che sono state a Roma sabato, dove ci sono state delle devastazioni di Roma. È stato identificato l'agente che dava calci alla ragazza, così titola Repubblica. Lui dice: non me ne sono accorto, si è presentato spontaneamente in questura il capo della polizia Alessandro Pansa, lo aveva definito un cretino che va punito. E oggi su Repubblica, sempre a pagina 23, parla la ragazza che è mortuata in questa foto con un piede che le calpesta l'addome. Mi ha colpita, non lo perdono, ma erano tanti poliziotti che pestavano. Debora, 22 anni, è di Trento, mamma infermiera, papà finanziera, un fratello, vive a Pisa per studiare. Viene immortalata Debora Grisani insieme ad Andrea Coltelli, cioè il suo fidanzato che nella foto la protegge da questo piede del poliziotto. Il gesto di Andrea, dice, è stato molto spontaneo, di solidarietà. Lì per lì non pensavo a un calcio, ho capito meglio cosa mi aveva fatto dalle foto, io non lo perdono. non lo perdono, ma mi chiedo cosa è successo in quella piazza. C'erano giornalisti, fotografi, telecamere. Ricordo che mentre ero a terra, dice questa ragazza Repubblica, qualcuno che riprendeva con la macchina fotografica mi ha anche gridato: girati che non ti si vede bene. Ecco, siamo arrivati a questo, dice in questa intervista di Laura Montanari. Ho visto quelli con i caschi nella manifestazione, ma non so chi fossero. Io sono andata alla manifestazione a volto scoperto e il mio fidanzato ha preso manganellate, il sangue gli colava dalla testa. Un poliziotto ci ha fatto alzare appena in piedi, l'ho guardato, gli ho detto: cosa fate? E lui ci ha urlato: siete della gente di merda. Oh, questa è la versione della ragazza, ma attenzione, perché Libero, riprendendo il sito Dago Spia, dà una versione totalmente diversa. Truffa no global, titola Libero a pagina 6 e 7, e se la prende soprattutto con il fidanzato di questa ragazza, scrivendo: Libero, solo il sito Dago Spia ha avuto il coraggio di dire la verità. Eccolo qui il fidanzatino, immortalato in qualche foto prima di quella in cui era in terra a proteggere la ragazza con il poliziotto che la calpestava. La sinistra che santifica i barbari e manda a processo il poliziotto, titola Libero a pagina 7. Elogi per il giovane fotografato mentre abbraccia la ragazza, ma poco prima Dago Spia svela l'inganno, era in piazza per sfasciare tutto. Viene immortalato prima con col sangue sul volto, frutto evidentemente di un colpo, di una manganellata, e poi anche viene immortalato prima però con il volto coperto. Scrive Roberta Catania su Libero: per 48 ore è stato dipinto come un eroe, addirittura c'è chi ha consumato parecchi inchiostro per spiegare che questi due ragazzi fossero capitati per caso in mezzo agli scontri, ma il doppio volto del ragazzo eroe lo ha scoperto Dago Spia, lo rende noto pubblicando una sequenza in cui si vede questo pacifista, tra virgolette, scritto su Libero, girare praticamente irriconoscibile, occhiali nere e sciarpa rossa, al fianco dei compagni più violenti. Ecco, due pagine sul Libero, insomma, la polemica che continua sui giornali. Noi riprendiamo dopo la pubblicità dalle nomine, anche queste nomine che hanno suscitato discussioni e polemiche. Certo, tante donne, qualcuno però fa notare che le donne sono state messe nel ruolo di presidente, mentre il ruolo più esecutivo è quello di amministratore delegato. Comunque, riprendiamo da qui. Alessandro Milan, il mago di Oz dell'informazione. Evviva, evviva! Allora, la notizia con cui aprono quasi tutti i quotidiani è il ricambio ai vertici delle aziende di Stato. Ieri scadevano alcuni mandati e quindi c'è stato il rinnovo. Sicuramente ci sono tante novità importanti, come detto i nomi ormai li conosciamo: all'Eni amministratore delegato Claudio Descalzi, all'Enel Francesco Starace, a Finmeccanica Mauro Moretti, colui che ha ingaggiato la polemica anche sullo stipendio con Renzi, alle Poste Italiane Francesco Caio. Mentre per quel che riguarda i ruoli di presidente, confermato a Finmeccanica Gianni De Gennaro, e invece arrivano tre donne: all'Eni Emma Marcegaglia, all'Enel Patrizia Grieco e alle Poste Italiane Luisa Todini, che attualmente è anche consigliere di amministrazione della RAI. Allora, il ricambio ai vertici delle aziende di Stato, Gianni Dragoni, che abbiamo sentito anche nel giornale radio, fa una lunga analisi sul Sole 24 Ore. Certamente il tema che è più dibattuto è proprio la scelta della squadra rosa di Renzi, come la definisce Repubblica a pagina 4. Beh, in maniera molto più polemica, il titolo del manifesto a pagina 2 è questo: arrivano le Renzi's Angels, un poker di donne presidenti. Certo, poker, perché ci sarà anche la nomina di Bastioli a capo di Terna nei prossimi giorni. Insomma, è una bandierina da sventolare come conquista oppure è una vera e propria rivoluzione? Secondo un retroscena firma Federico Geremicca sulla Stampa in prima pagina, Renzi è proprio pronto a dire: eccola la vera rivoluzione, 4 donne su 5 è la mia rivoluzione. Questo è il titolo di questo retroscena. Sono quasi le 9 di sera, scrive la Stampa, e mentre l'auto di Silvio Berlusconi si muove verso Palazzo Chigi e le agenzie di stampa battono i nomi dei nuovi manager di Stato, Matteo Renzi è un fiume in piena. Ora ditemi se questo non è cambiare verso all'Italia, dice ai suoi. È soddisfatto, forse di più, perché ritiene di aver messo a segno un altro colpo, anzi il colpo con la C maiuscola. 4 donne presidente su 5 nominati. Questa è la mia vera rivoluzione agli occhi dell'opinione pubblica italiana e internazionale. L'Europa, e non solo, ci guarda da tempo come un paese segnato dall'arretratezza per l'incapacità a rinnovare le classi dirigenti e a inserire donne nei posti che contano. Stiamo dando dei segnali forti finalmente. Queste nomine sono parte di un progetto di rinnovamento inedito, assoluto, già cominciato. Questa è la strategia del Premier: scommettere sulle donne, scrive in questo retroscena La Stampa. Certo, sa che saranno contestate queste scelte, infatti i dubbi, un pochino di polemiche ci sono. Per esempio il Corriere della Sera lo mette in nero su chiaro, nero su bianco, a pagina 5. Il titolo è Presidenze a 3 donne, ma la svolta è a metà. Ma è il sottotitolo soprattutto quello che conta: nessuna riesce a ottenere l'incarico più operativo di amministratore delegato. Quindi questo scrive il Corriere. Dunque Presidenza di Eni, Enel e Post, probabilmente anche quella di Terna, ma scrive Maria Silvia Sacchi in questo articolo a pagina 5, la discussione è stata anche accesa fino a sfiorare la carica di amministratore delegato con Monica Mondardini, ma alla carica di amministratore delegato non è arrivata nessuna donna, e scrive il Corriere, è quella la vera carica che conta, mentre le altre, quelle di presidente, sono più ruoli di rappresentanza. Beh, insomma, così lo scrive in maniera un po' sfumata il Corriere della Sera, mentre sapete che Iena sulla Stampa, pagina 3, nel suo graffio è sempre urticante, e scrive Iena: a proposito di donne, lo sapevate che i presidenti delle aziende pubbliche non contano quasi nulla? Questo Iena sulla Stampa. Comunque, dopo le nomine, Renzi ha incontrato Berlusconi. Ieri in serata Silvio Berlusconi è andato a Palazzo Chigi. Berlusconi va da Renzi, titolo al Sole a pagina 24. Del Rio giustifica, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio giustifica così l'incontro. Berlusconi era un po' nervoso sul piano delle riforme, dovevamo incontrarlo. C'è da dire che in questo lungo racconto che trovate per esempio su Repubblica a pagina 2-3, Berlusconi viene dato nervoso anche perché quando si è presentato avrebbe subito messo sul tavolo questa frase: ti rendi conto che è un salto nel buio? Come vi è venuto in mente di rimuovere Scaroni dall'Eni e Sarmi dalle Poste? Questo raccontano Giovanna Casadio e Carmelo Lopapa, pagina 2 di Repubblica. Ecco, Berlusconi si è subito presentato così, come dire: avete tolto i manager che avevamo scelto col nostro governo, persone competenti. E questo è il titolo del retroscena. Poi si è parlato di riforme. Berlusconi da Renzi: confermato il patto, ma voglio modifiche. E il Premier dice: Senato subito. Dopo, diciamo, la tensione sfumata sulla questione delle riforme, sulla questione delle nomine si è parlato di riforme, si è parlato dell'importanza di continuare su questo piano. E il retroscena anche di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, pagina 11, il titolo è questo: il Premier, ora i fatti prima del voto. L'accordo sulla riforma del Senato tiene, ci saranno solo aggiustamenti su punti marginali. Insomma, nessuno spazio a manovre dilatorie e ricattatorie, questo ha detto Renzi. A proposito di manovre ricattatorie, a proposito di ricatti, voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno e bentrovato. Buongiorno, buongiorno. Guarda che il mio avvocato sta raccogliendo tutti questi a proposito. Sì. E quindi a breve poi riceverai necessarie comunicazioni. Va bene, va bene. Comunque voglio dirti, a proposito invece di traffico, ma non mandare il traffico, no, lo dico a proposito, no, di traffico, sappi che oggi con il Sole 24 Ore trovi il dizionario dedicato all'auto, che contiene tutte le parole da sapere e anche delle spiegazioni molto utili, che fare quando si compra un'auto, quando si compra un'auto usata, la garanzia, le polizze, le multe e tutto quanto, insomma un prodotto che poi magari rilanciamo quando parliamo di traffico. Hai preso il BTP Italia, l'hai prenotato? Tu guarda, rimarrai stupito, ma sì. qualcosa si vedi, vedi sono che... mossi questi 2 euro. Vedi che l'economia aspettavo, può ripartire. Aspettavo, ho detto me la farà questa domanda e io lo stroncherò con questa ti spiazzante molto bene. Risposta allora devi assolutamente leggere Maximilian Cellino che spiega il funzionamento di questo strumento che continua benissimo. Ad avere successo. Ho perso già dei soldi? Dimmi subito. No, chiedevo. Vabbè, poi leggerò. Stai sereno, Alessandro. Sto sereno. Ale, stai sereno. Stai sereno anche perché Del Rio ha assicurato che il bonus IRPEF agli incapienti, sai che parlavamo ieri degli incapienti. Sì, hanno trovato dei soldi. No, ci sarà, lo danno questo bonus, quindi stai sereno. Anche su questo. Posso fare un attimo di radiofisco perché è importante? Certo, fondamentale. Allora, qui radiofisco. È in arrivo un'altra proroga sui beni ai soci. Si parla di fine ottobre. Ottimo. Ecco, I soci hanno capito. Beni ai soci. Chi deve capire, capisce. Non tu e io, altri devono capire. Poi un altro qui radiofisco. Abbiamo il dato del TFR di marzo e anche tutto lo sviluppo degli interessi di mora. Tutto quanto nella sezione norme e tributi, non voglio dirti altro, no. Poi non è bene che queste informazioni escano dal cerchio delle persone che sanno, di coloro che sanno, come diceva il poeta. Di coloro che sono sospesi, va bene. Che sanno. Ecco, poi ti voglio anche dire che sui pagamenti della pubblica amministrazione ancora Del Rio ha rassicurato tutti, ha detto no, adesso attiviamo un sistema per cui non andremo in ritardo, perciò un po' rispondendo a cose che tu e io ci dicevamo ieri, parlando appunto del Sole 24 Ore. Bene. E poi abbiamo naturalmente una utile pagina dedicata al condominio, proprio l'ultima pagina edizione di oggi, con i certificati dell'energia risparmiata, che è una cosa abbastanza interessante, ma non ti dico nulla per non toglierti la sorpresa, so che tu sul condominio sono sempre molto curioso e molto preparato. Molto preparato. Sono proprio contento che hai speso questi 2 euro. Hai visto? Finalmente qualcosa si è mosso. Qualcosa si è mosso. Hai avuto un aumento di stipendio. Certo, assolutamente. Sì. Aumentone. Un aumento. Molto bene. Mi lamenterò con il direttore del personale. È il mio momento? È il tuo momento. E allora, ricordando a tutti quanti, oggi con il Sole 24 Ore, dizionario dell'auto, è un piacere annunciare il traffico. Alessandro Milan ti mette le ali. Ma ci sono dei matti veri, con grande affetto, cari ascoltatori, il caso dell'Utri anche oggi ha la sua buona dose di articoli sui giornali. Scrive il Corriere della Sera, su Dell'Utri si deciderà entro 30 giorni. Tra l'altro l'arresto diventa un caso politico, racconta Giuseppe Guastella. Il caso politico è perché il politico candidato in Libano, Gemayel, nega qualsiasi legame con Dell'Utri. Sapete che è stata attribuita a Silvio Berlusconi questa frase: ho mandato io Dell'Utri per fare la politica, la campagna elettorale al mio amico Gemayel in Libano, ma Gemayel in un comunicato ha detto è una notizia priva di qualsiasi fondamento sotto tutti gli aspetti. Dell'Utri che ha incontrato i familiari dicendo mi trattano bene, Dell'Utri che non si è presentato dal giudice perché il giudice non ha sentito il bisogno di convocarlo. Il giudice che dovrà decidere del destino di Dell'Utri è il procuratore generale di Beirut, Samir Hammoud. Fa sapere i giornali che arriva nel palazzo bunker libanese poco dopo le 13, racconta Repubblica a pagina 9, e dice non è stato convocato Dell'Utri semplicemente perché non c'è nulla da convalidare. In linea di principio il signor Dell'Utri può rimanere in stato di arresto a Beirut fino alla decisione sulla richiesta di estradizione dall'Italia. Quando arriverà la richiesta di estradizione mi pronuncerò sul caso. Tra l'altro oggi anche Repubblica comincia a avanzare dei dubbi sul fatto che Marcello Dell'Utri possa tornare in Italia. È davvero sempre più intricata questa vicenda. C'è anche un articolo del trattato di rapporti bilaterali tra Italia e Libano, l'articolo 21, che prevede qualora, come nel caso dell'ex senatore, il cittadino da estradare non sia stato condannato in via definitiva, il Libano non ha alcun obbligo di dare corso alla procedura. L'estradizione dunque verrà concessa solo se le autorità libanesi riterranno che esistono prove sufficienti che avrebbero consentito il rinvio a giudizio dell'imputato in Libano. E siccome in Libano non esiste il reato per cui è sotto processo dell'Utri in Italia, cioè associazione esterna alla mafia, e in qui ci potrebbe stare l'inghippo per cui il Libano non riconosce questa possibilità di estradizione per un reato che per il codice libanese non esiste. Staremo a vedere. Certamente, come ho detto ieri, non è una vicenda semplice, non è una vicenda che verrà risolta in pochi giorni e non è detto che verrà risolta con il rientro di Dell'Utri in Italia. Vorrei però andare alla cronaca, ci sono tante notizie. La prima, e continua sui giornali, la vicenda dell'incredibile errore con lo scambio di embrioni al Pertini di Roma, vale a dire le coppie che sono presentate, alcune coppie per la fecondazione in vitro e hanno impiantato gli embrioni fecondati di una coppia nell'utero di un'altra donna, che ora sta portando avanti la gravidanza di due gemelli che non sono i suoi figli biologici, ma i giornali si interrogano proprio su questo. Sono però figli suoi perché li porta in grembo e quindi questo vale più di tutto? Oppure sono i figli, essendo biologici, di un'altra coppia, dovrebbero addirittura essere restituiti all'altra coppia? Perché guardate che il Messaggero intervista proprio la madre mancata. L'ira della madre mancata, questo è il titolo a pagina 13, quei due piccoli li voglio io, è una donna romana di 36 anni che all'inizio dice poveretti questa coppia che sta vivendo questo dramma, ma poi aggiunge Dio mio, quei bimbi potrebbero essere i miei, il mio embrione fecondato, trapiantato nell'utero di un'altra donna. Io aspetterò i risultati fremendo. Certo, questa donna, racconta il Messaggero, penserà, li ho tenuti in pancia per 9 mesi, nella mia pancia, e dunque sono i miei figli. Ma se gli embrioni non sono i suoi, neanche i figli lo sono. E io potrei vivere con l'idea, al sospetto di sapere che ci sono i miei bambini in giro per l'Italia. E dunque, insomma, la vicenda si complica, questa signora di 36 anni non riesce a darsi pace, voglio sapere se c'è stato un errore, voglio sapere se i miei embrioni fecondati sono stati impiantati su quella donna e se è il caso è pronta addirittura a reclamare per sé, in qualche modo, la restituzione o comunque la consegna dei bambini biologici una volta che saranno nati. Beh, davvero la vicenda è incredibile. Caos, embrioni scambiati, ora è psicosi tra i genitori, esami su 300 coppie, fa sapere Repubblica. C'è anche un'intervista a Massimo Giovannini, direttore del centro, che dice a chi piangeva o promesso non capiterà mai più. Secondo il Corriere della Sera tutto è nato perché non c'erano i codici a barre sulle provette, ma solamente i nomi, o meglio i cognomi. E quindi senza codice a barre, senza controllo elettronico è nato questo clamoroso scambio. Tra l'altro, sul Messaggero a pagina 12 c'è un'intervista al filosofo Tullio Gregori che dice: io affiderei i due bambini proprio ai genitori biologici, cioè quindi non a coloro che stanno materialmente, soprattutto la donna, portando avanti la gravidanza. La tecnica rimane importante, non va esorcizzata, dice il filosofo Gregori, consente alle persone che non fanno figli di poterne avere, ma nel caso dello scambio il tema è come si prospetta il rapporto di figliolanza. Dal punto di vista biologico non c'è dubbio che io ho un rapporto di discendenza genetica non solo con i miei genitori, ma con un'intera stirpe. E provando a immaginare se la scelta toccherà a lei, cosa farebbe? Premesso che di onnipotente c'è solo il Padre Eterno, io affiderei due bimbi subito dopo la nascita ai loro genitori biologici. Beh, davvero una scelta sarebbe anche questa incredibile, perché adesso c'è una madre che sta portando avanti una gravidanza e che dice la porto avanti, racconta anche alla stampa tramite il proprio avvocato, terremo questi gemelli. Ma certo, anche loro si chiedono, e i nostri embrioni invece dove sono? E infatti il marito della signora che sta portando avanti la gravidanza, scrive la stampa, teme un'azione di disconoscimento del padre biologico. Vabbè, questa vicenda è davvero intricata e complicata. Vicenda invece intricata e complicata anche per un calciatore importante, un campione della Roma, Nainggolan, che è accusato dopo una furiosa lite con la moglie per strada, è stato accusato da qualcuno di avere addirittura alzato le mani. Una passante infatti avrebbe assistito a un furioso litigio tra il campione della Roma, ha chiamato i carabinieri, ha parlato di morsi, schiaffoni e spintoni alla moglie. Lui twitta su Twitter, il suo profilo ufficiale: fatevi i cazzi vostri, questo testuale, problemi in famiglia esistono ma mani addosso mai. Anche la moglie stessa ha twittato: si è trattato di uno screzio, solo un diverbio, chi è che non litiga con il proprio marito. Ma insomma, il titolo del Corriere è: morsi e pugni in strada, l'aggressione alla moglie che inguaia Nainggolan, con il rischio di una denuncia. Una passante ha detto che è stato più che un litigio, è stata una vera e propria, insomma, violenza ai danni della donna. Va bene, staremo a vedere anche questa vicenda se evolverà. Siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi è un flash, perché non c'è tempo, e lo vince il giornale che pone questo drammatico problema con Enza Cusmai a pagina 19. Nel paese dei navigatori, metà dei bimbi non nuota. Ah, abbiamo i nostri figli che non nuotano, e portateli in piscina, metteteli al mare, ma non scrivetene sul giornale, dai, su, che la carta costa e lo sappiamo tutti. Avanti, giornale radio. 24 mattino. Eccoci, cari ascoltatori, sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, secondo Repubblica, Renzi ieri ai suoi, tutto soddisfatto, diceva: eravamo il paese del bunga bunga, ora le donne guidano esteri, difesa e sono ai vertici delle più grandi aziende italiane. Parlava ovviamente delle nomine Eni, Enel, Finmeccanica, Poste, le presidenze di questi enti. Qualcuno poi fa notare che i ruoli più operativi sono quelli degli amministratori delegati, più delle presidenze di queste importanti aziende. Ma comunque non è tanto il tema delle nomine quello di cui vogliamo occuparci questa mattina, quanto intanto dell'euforia di Renzi, che non passa giorno e non annunci la sua voglia di rivoluzione, di lotta dura e pura alla burocrazia, ai mandarini di Stato, alla palude, come spesso la definisce. Qualche giorno fa Renzi è stato durissimo, sentite con quali parole. Una violenta lotta contro la burocrazia. Utilizzo l'espressione violenta. Noi non abbiamo alternative. Non abbiamo alternative a una violenta lotta alla burocrazia. Ieri, o meglio un paio di giorni fa, La Stampa pubblicava un elenco di alti burocrati, dirigenti statali con i loro stipendi. Per carità, senza voler fare e mettere alla gogna nessuno, ma ieri appunto sulla Stampa c'erano per esempio gli stipendi del presidente della Corte Costituzionale, che si mette in tasca 1.490 euro al giorno, oppure il segretario generale della Camera Ugo Zampetti 1.309 euro al giorno. E ancora c'è anche il segretario generale del Senato Elisabetta Serafin, che prende sui 1.200 euro al giorno. Sempre al giorno, cari italiani, mica al mese, ma al giorno. Allora, sono questi gli esempi di quella lotta alla burocrazia che Renzi vuole fare e ce la farà. Il presidente della Camera, Laura Boldrini, ha detto già alla Camera in prima linea con la revisione della spesa. Siamo i primi a mettere in campo i tagli. Ne vogliamo parlare con il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, del Movimento 5 Stelle. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi, buongiorno. Così come saluto Matteo Ricci, che è presidente della provincia di Pesaro Urbino e anche il vicepresidente del Partito Democratico. Matteo Ricci, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, intanto, Di Maio, c'è questa spending review alla Camera, come annunciato la presidente Boldrini, oppure no? Ma io ho già risposto infatti alla presidente Boldrini in questi giorni, visto che sta tenendo questa corrispondenza epistolare con Renzi. Sia l'uno che l'altro ormai è un mese che parlano di lotta alla burocrazia, è un anno alla Camera che il Movimento 5 Stelle chiede al PD e alla Boldrini di utilizzare lo status dei dipendenti pubblici per associarlo allo status dei dipendenti della Camera, in modo tale che si abbassino direttamente gli stipendi. E entrambe fanno orecchie da mercante. Ci sono stati dei tagli di 2.000 euro a chi prende 500.000 euro all'anno, come il segretario generale. Quindi dei tagli che suonano più come marchette elettorali. E quello che in questo momento fa un po' arrabbiare è che si sta parlando di lotta alla burocrazia, ma io ancora devo vedere un atto da un anno alla Camera, nonostante il PD alla Camera detenga il premio di maggioranza, quindi è maggioranza. Però forse, alla Camera per decidere su queste cose. Di Maio, forse sì, non si può applicare, non si può proprio per legge, non per mancata volontà. Sappiamo che la Camera, no, c'è questa autonomia legislativa, l'autodichia. Basta recepire quelle che sono le normative esterne. Per esempio l'anno scorso la Camera ha recepito la Fornero e quindi siamo passati ad un altro regime pensionistico per i dipendenti. È semplicemente una questione di volontà, come tutte le cose anche in un organo che ha l'autodichia come la Camera dei Deputati. Tant'è vero che su questo noi stiamo chiedendo di mettere in linea gli stipendi dei parlamentari con gli stipendi dei parlamentari europei, e anche su questo il PD sta facendo orecchie da mercante da un anno, nonostante abbia un questore della Camera che ha un ruolo fondamentale per decidere di queste cose. E non è che lo sta decidendo, cioè sta facendo orecchie da mercante un'area del PD che possono essere i Bersaniani o i Lettiani, no, io in ufficio di presidenza ho anche i Renziani che fanno orecchie da mercante da un anno come sì, i Bersaniani e come i Lettiani. Però mi faccia questo capire, lei per esempio Ugo Zampetti lo incrocia, essendo anche vicepresidente della Camera, lo incrocia e ci lavora a fianco, no? Quando presiede la Camera, lei di turno, no? In genere il segretario generale. Devo dire che io lavoro più con i vice segretari, è la presidente che lavora col segretario generale, io lavoro principalmente però con i vice segretari. Non vogliamo mettere insomma una persona o più o alcune persone, io ne ho citate come esempi di quelli che guadagnano di più, sono stati citati dalla stampa, ma che cosa c'è di scandaloso nei 1.309 euro al giorno che guadagna il segretario generale della Camera? Che sono il frutto di anni di privilegi lì dentro, che in cui la politica ha coperto la burocrazia e la burocrazia ha coperto la politica, e adesso siamo ad un punto in cui i cittadini chiedono riduzioni degli stipendi per la politica e per la burocrazia, ma nessuno dei due vuole cedere, perché io vorrei farle notare che questa cosa dei 1.300 euro al giorno non è che è nata ieri, saranno almeno 10 anni che ci sono questi stipendi. Tra l'altro il segretario generale della Camera, Ugo Zampetti, è lì dal 98 e c'è una norma alla Camera dei Deputati che diceva prima che un segretario generale non poteva essere rinnovato per più di due volte. Hanno cambiato la norma in questi anni e non è un caso che in questi anni lì abbiano predominato PD e PDL alternandosi. Hanno eliminato la norma e così poi, mettendo una persona per così tanto tempo in quel vertice, crescono le anzianità. Crescendo le anzianità cresce lo stipendio. Sì, certo, c'è da dire, che se non si cambia comunque la norma, voglio dire, è questo perché volevo specificare, non c'è nessuna personalizzazione, se non si cambiano poi le regole, tolto lui, se ne mette un altro o un'altra e lo stipendio rimane quello. Io però vorrei chiedere a Matteo Ricci, senta, quando sento Renzi parlare di lotta violenta alla burocrazia, intanto mi chiedo, ma lo chiedo a tutti, lo chiedo anche a lei, quale arma segreta che noi non conosciamo, a parte le dichiarazioni, voler dire andare contro la palude, ora bisogna cambiare, ora il paese deve fare una rivoluzione, qual è l'arma segreta che ha in mano Matteo Renzi, lei che lo conosce, per vincere questa battaglia alla burocrazia? Ma non c'è un'arma segreta, c'è una grande volontà di cambiare finalmente le cose. Ovviamente si cambiano le cose rimettendo in discussione i privilegi, bisogna dire la verità, io capisco che a Di Maio forse questa cosa non fa molto piacere, ma da un mese a questa parte è cambiata musica a tutti i livelli, si sta cominciando a dare finalmente il buon esempio, si stanno mettendo in discussione posizioni consolidate da decine di anni e c'è una velocità nel farlo che non si era mai vista prima. E quindi credo che questo sia il momento nel quale tutti coloro che vogliono ottenere un risultato, cioè quello di diminuire i privilegi in questo paese, debbano collaborare, non per forza dire che non va bene perché a proporlo un presidente del Consiglio magari non del proprio partito. Però il tema della burocrazia è ancora più complesso, sì, perché il tema della burocrazia significa rimettere in discussione, come io credo occorra fare, l'organizzazione della pubblica amministrazione che negli ultimi 20 anni si è consolidata. e in particolar modo significa rimettere in discussione una legge che fece il centro-sinistra, che è la legge Bassanini, che è stata negli anni storpiata e che oggi a mio parere non ha più senso. Cioè, il tema vero è che un dirigente della pubblica amministrazione a tutti i livelli, se deve guadagnare, deve avere, oltre delle grandi responsabilità, la flessibilità del rapporto di lavoro. In Italia con la Bassanini noi abbiamo spostato dopo Tangentopoli gran parte delle responsabilità dalla parte politica alla parte dirigenziale. L'idea era: ogni amministratore che arriva a livello nazionale, soprattutto a livello territoriale, si prende i dirigenti migliori che ci sono, sì, li paga perché sono i più bravi, se fanno bene gli dà un premio perché gli dà degli obiettivi da raggiungere, se non fanno bene il premio non glielo dà e addirittura se non raggiungono nessun risultato li possono mandare via. In Italia poi abbiamo fatto concorsi, per cui oggi in tutti i settori pubblici noi abbiamo dirigenti a tempo indeterminato, sì, con stipendi altissimi e con l'obbligo in una fase di vacche magre di avere il premio di produzione. Allora questo è l'elemento principale da rimettere in discussione. Da rimettere in discussione questo, però mi faccia capire, Ricci, quando le dice nell'ultimo mese è cambiato e con una velocità impressionante, però... concretamente, giusto perché io ho fatto questi casi, visto che si dice nessuno deve guadagnare più di 238.000 euro e pare che i presidenti di Eni, Enel e Poste abbiano accettato questo discorso, questo almeno ha detto Renzi, cioè li ho nominati, hanno accettato che non guadagnano più di 238.000 euro, i presidenti, non gli amministratori delegati, però come si fa ad andare al segretario della Camera a dire guarda adesso ti abbassiamo a 238.000 euro con la questione dei diritti acquisiti? Questo è il senso di che arma segreta ha Renzi per fare una cosa che mi sembra incostituzionale, cioè perderebbe qualsiasi ricorso, ecco. No, non lo può fare lui direttamente, ma può spingere la Camera a farlo, così come sta spingendo i senatori a votare la riforma del Senato che prevede l'abolizione del Senato e la trasformazione in Senato delle autonomie. Cioè Renzi userà non ovviamente la forza in senso lato, ma userà sicuramente tutta la pressione politica della volontà di chi guida il governo, della forza che l'opinione pubblica gli sta dando in questo momento affinché tutti cambino, Camera e Senato compresi. E credo che se i parlamentari di tutte le forze politiche seguiranno questa indicazione, cose che fino a ieri sembravano impossibili, da domani si potranno fare. Si potranno fare. Di Maio, lei non è convinto di questa spinta riformista di Renzi? Io mi permetto solo di dire una cosa, questa storia che da un mese è cambiato musica, io sento solo parole, i fatti stanno a zero e soprattutto alla Camera, nonostante il PD presieda il comitato per il personale, il cosiddetto CAP, che si può occupare da un anno della riduzione di questi stipendi e non l'ha fatto. Non rinnovare il segretario generale significa riportare nei limiti lo stipendio di quello nuovo che andrebbe nominato, che non avrebbe gli scatti d'anzianità di questo. Quant'è la base quindi... dello stipendio? Cioè, se ci fosse un nuovo segretario, da quanto parte la base? Ma lei deve mettere che ci sono degli scatti d'anzianità, due all'anno, uno del 2 e uno del 6% ogni anno, quindi due all'anno. Bisogna fare il conto. Fantastico. Che ci sono almeno 200.000 euro in più a fine carriera, di questo stiamo parlando. Quindi diciamo un nuovo segretario partirebbe da 200.000 più o meno, no? 200, poi bisogna vedere qual è il trattamento, ma da lì noi possiamo iniziare con una nuova normativa che riguarda i segretari generali. Abbiamo risolto il problema dei diritti acquisiti, ma su questa storia noi a novembre abbiamo presentato un provvedimento che è stato dichiarato inammissibile alla Camera dei Deputati come Movimento 5 Stelle, che chiedeva proprio di non rinnovare più il segretario generale, che in questo momento si sta rinnovando all'infinito in questi anni. Quello che a me insomma suona strano è che, come Letta lo diceva, adesso Renzi lo dice, ma Renzi è il segretario del Partito Democratico, che è il partito di maggioranza alla Camera, sì. E perché queste cose non si sono fatte e non si stanno facendo neanche adesso, nonostante il mio collega Riccardo Fraccaro nel comitato per il personale sì. Si sta battendo per assimilare però lo lei dice adesso io non devo prendere le parti di nessuno perché non è nel mio compito e nella mia volontà, però è arrivato da un mese, non so, Ricci ci sta dicendo nel giro di un mese qualcosa è cambiato, una rivoluzione è in atto, lei dice non si vede nulla concretamente, effettivamente però diamo tempo magari qualche mese e poi qualcosa di concreto si deve vedere anche su questa lotta alla burocrazia, se no rischia di apparire appunto solo un grande slogan molto molto potente. Ma ripartiamo partiamo da qui tra un attimo, dopo la pubblicità. Siamo con il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, con Matteo Ricci, che presiede la provincia di Pesaro Urbino e vicepresidente del PD. Tra l'altro ci raggiungerà anche l'ex senatore Massimo Villone, oggi è un costituzionalista, è uno che da senatore le battaglie contro la casta le ha fatte ben prima che uscisse il libro La Casta di Stella Rizzo. Ci racconterà se questa battaglia contro la burocrazia è una battaglia persa oppure si può vincere. 24 mattino. Non è accettabile che l'Italia in questi 15 anni abbia visto bloccarsi i consumi, bloccarsi il ceto medio e vedere le retribuzioni dei dirigenti pubblici crescere in misura sproporzionata e inaccettabile. È un fatto di correttezza e io so che su questa battaglia noi stiamo cercando di far pagare chi non ha mai pagato. Loro cercheranno di farla pagare a noi, vorrei essere chiaro. Ma voglio anche dire che non interpreto il mio ruolo per stare a scaldare una seggiola. Io sono lì per cambiare l'Italia. Se il palazzo deve cambiare me, allora vuol dire che non sono adatto. Insomma, la vive così Matteo Renzi, un po' come una battaglia noi e loro. Siamo con Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, e Matteo Ricci. Ecco, ma loro chi sono, Ricci? Perché sembra un po' questa contrapposizione da Highlander, no? Ma loro sono... sono tutti coloro che pensano che si possa uscire da questa fase di difficoltà continuando a galleggiare. Questo è un momento straordinario per il Paese. Stiamo vivendo una crisi economica e sociale drammatica, la disoccupazione è altissima, soprattutto quella giovanile, e noi abbiamo bisogno di cambiare profondamente il Paese e la sua organizzazione. Ridurre la burocrazia significa avere un Paese più veloce, più snello, più in grado di attrarre e sviluppare investimenti e di conseguenza posti di lavoro. È un lavoro difficile da fare, mi rendo conto, ma va iniziato dal vertice e va fatto anche a livelli locali e a livelli territoriali. Tra l'altro, questo... mi scusi, lei Ricci è presidente di una provincia, no? Sa che sono tutta... una vittima di Renzi, una vittima di delle cose che sono successe in queste ultime settimane. Ma non, quindi... non sono scomparse, queste province, vogliamo dire, io tengo la conta e tengo, dico, siamo alla 50ª settimana decisiva per l'abolizione delle province. Cioè, abolizione è una parola precisa, no, in italiano. Abolirle vuol dire che uno bussa alla provincia di Pesaro Urbino non trova più nessuno. Sì, intanto sappiamo che per l'abolizione è inserita nella riforma del titolo quinto, quindi esatto, sarà una riforma che si discuterà nelle prossime settimane. Però intanto è stata tolta la parte politica. Io sono una vittima di Renzi, a proposito che le cose in queste settimane sono successe, perché non ci saranno più i presidenti, non ci saranno più le giunte, i consigli, e le province diventano ente d'aria vasta gestito dai comuni in questa fase transitoria. Dopodiché bisogna dire la verità: se uno le vuole abolire del tutto deve licenziare i dipendenti. Se vogliamo fare la più grande operazione di licenziamento di massa in questo paese, visto la disoccupazione che c'è, diciamolo, perché si possono riconvertire, sono dipendenti pubblici. Con questa legge vengono riconvertiti in base alle funzioni che passeranno a comuni e regioni. Ovviamente il turnover era già applicabile, era già applicato, e quindi ovviamente saranno enti che non assumeranno e quindi andranno a ridurre gradualmente il personale, sicuramente andranno a ridurre i dirigenti, a proposito dei dirigenti, ma è l'avvio di una riforma importante. È chiaro che il tema delle province va posto dentro un ragionamento più ampio. Io sarei partito dalle regioni, ad esempio, perché le ritengo in questo momento l'ente diciamo più farraginoso, più pesante a livello territoriale che c'è, e che sicuramente ha bisogno di una cura dimagrante, di uno snellimento sia dei privilegi di chi le rappresenta, sia nell'organizzazione e nella funzionalità dell'ente stesso. Però da qualche parte bisognava iniziare. Sono stato tra i pochissimi presidenti di provincia che ha accettato la sfida della riforma, perché non è possibile sempre iniziare da qualcun altro. Non poteva andare contro Renzi, non poteva andare. Senta, ma è chiaro, era come una battuta. Era letta al governo quando è stata proposta la prima volta il decreto. È pur sempre del suo stesso partito, quindi non poteva andare neanche contro Letta. Sicuro ci sono stati molti presidenti del PD che hanno fatto da matti pur di rimanere. Immagino la poltrona. È sempre la poltrona. Vicepresidente Di Maio della Camera, le chiedo questo: per esempio Renzi, che nomina ieri, fa le nomine, mette anche alcune donne alla presidenza di Eni, Enel e di Poste, e dice hanno accettato di guadagnare 238.000 euro, non è un piccolo passo di svolta, insomma una piccola nota positiva? Prima di tutto deve passare per l'assemblea dei soci dell'azienda, quindi per ora è stato fatto un invito all'assemblea dei soci a votare che queste persone abbiano uno stipendio come della cifra che ha detto lei. ma soprattutto lei all'inizio citava quella frase, eravamo il paese del bunga bunga, adesso siamo il paese in cui le donne stanno al vertice delle aziende. Io dico, eravamo il paese del conflitto di interessi e siamo rimasti il paese del conflitto di interessi, perché a vertice dell'ENI c'è la Marcegaglia che ha affari con l'ENI, quindi ci ritroviamo al vertice di un'azienda una persona che ha una sua azienda che lavora con l'ENI, come la Guidi, che è la ministro dello sviluppo economico, ha un'azienda che lavora con Ferrovie dello Stato. Hanno smentito, quindi, entrambe alla fine, quello che diceva in questi mesi, in questi anni, il PD contro Berlusconi, che bisognava evitare i conflitti di interesse, adesso è diventato però il principale. Lei dice così, ma sa, hanno smentito sia Marcegaglia sia l'ex, sia il ministro Guidi, dicendo che non ha commesso invece l'azienda di famiglia con l'Italia, ma insomma questo lei sostiene. Basta andare a vedere direttamente le visure camerali. No, vabbè, insomma questa è la sua idea. Le chiedo questo però, Di Maio, non posso non fare una domanda sulla questione di chi è successo ieri invece a Beppe Grillo. Sa che c'è tutta questa polemica su questo post per cui ha storpiato la scritta, no, sul campo di Auschwitz, Arbeit McFry, per scrivere P2, insomma, vabbè, ma al di là di, insomma, ha storpiato quello che è uno dei simboli mondiali della memoria della Shoah. Non mi dica che non è rimasto un po' sorpreso anche lei quando ha visto questa decisione. Guardi, io credo che non ci si possa indignare per un fotomontaggio in questo paese, soprattutto se a indignarsi sono quelli che 2 mesi fa cantavano Bella Ciao in aula mentre trasferivano 7 miliardi e mezzo di euro alle banche, sto parlando del PD. Io credo che non si possa discutere una giornata intera per un fotomontaggio e un'interpretazione libera di una poesia, altrimenti veramente cadiamo nell'ipocrisia più becera. No, questo sì, però sa, non è un'immagine come le altre, quella lì. Certo, ma non è che qui abbiamo fatto una dichiarazione contro le persone che sono state detenute nei campi di concentramento o contro la Shoah, o siamo diventati negazionisti. Semplicemente è stato fatto un fotomontaggio per portare all'attenzione di un tema che è quello poi legato al momento che stiamo vivendo in questo paese attualmente. Va bene, io allora intanto vi ringrazio, alle 8:44 minuti ringrazio Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, Matteo Ricci, che presiede la provincia di Pesaro Urbino, vicepresidente del Partito Democratico. Vorrei sentire gli ascoltatori prima di salutare anche il successivo ospite, Daniele Davarese. Buongiorno Daniele. Buongiorno, grazie Milan di avermi chiamato. No, grazie a lei. Senza fare il tifo per nessuno, ringrazio Di Maio perché è sempre molto sintetico e molto preciso. Una sola cosa, io sono un manager di una multinazionale che fa utili fortunatamente in tutto il mondo, ma lo sa perché fa utili in tutto il mondo, anche perché io lavoro e se dopo un anno faccio risultati mi salutano e mi danno un premio, ma se il secondo anno non faccio risultati mi salutano, non mi danno un premio e mi mandano fuori. Cioè lei cosa dice? Ci vorrebbero anche i risultati per i manager pubblici, non vede questo tipo di... Bisognerebbe evitare di parlarne perché insomma ha ragione anche lui. Adesso certamente Scaroni prenderà molto meno, ma io ricordo che qualcuno ha proposto ad esempio a Elio Catania in un'altra carica in Confindustria e se ben ricordo Elio Catania, voglio dire, è passato da Ferrovie all'Italia e non mi sembra che queste realtà siano diventate operative al massimo. Cioè, ma lei dice non c'è un livello degli stipendi commisurato ai risultati quando si parla di pubblico. La ringrazio Daniele. Dopo le informazioni sul traffico, gli altri ascoltatori e poi il professor Massimo Villone, che tra l'altro è già con noi, lo voglio salutare. Massimo Villone, buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Allora, dopo il traffico sono subito da lei, perché come ho raccontato lei oggi è costituzionale, insegna a Federico II di Napoli, è stato senatore e ha denunciato quella che è la burocrazia, le pastoie della palude romana, insieme all'ex senatore Salvi, lo ha fatto in un libro, però insomma sono denunce. Vorrei capire dal suo punto di vista cosa dovrà fare Renzi davvero per fare questa battaglia violenta, uso l'aggettivo che ha usato lui, alla burocrazia. Eccoci, sentirei un ascoltatore, Alessandro da Milano, buongiorno, che è in linea da tempo. Alessandro, eccoci. Buongiorno Milan, io non, lungi da me giustificare gli stipendi del segretario generale, ma tutta questa furia moralizzatrice sui compensi, non rischia di far passare in secondo piano le capacità? Mi spiego meglio, cioè io sono anch'io un piccolo dirigente di una piccola azienda, guadagno di più di quello che Grillo vuol far guadagnare i suoi deputati. Il signor Di Maio, come tanti altri, dei 5 Stelle soprattutto, nel 2012 dichiarava zero. Che affidamento mi dà una persona che dovrebbe ricoprire un ruolo di massimo dirigente dello Stato come parlamentare, quando nella società civile non gli davano neanche uno straccio di stipendio? È interessante questo punto di vista e la ringrazio Alessandro per questo intervento. Lo giro subito al senatore Villone, ex senatore, professor Villone. È una furia moralizzatrice quella di Renzi o è una battaglia giusta? Ma per una parte è una tecnica di comunicazione, perché Renzi fa politica così, lui ha sempre bisogno di personalizzare e demonizzare l'avversario, no? Quindi sono i parrucconi, i professoroni che non gli fanno fare le riforme, e sono i burocrati che non gli fanno dare servizi efficienti ai cittadini, quindi questo è un po' il suo modo di fare politica, ovviamente efficace dal punto di vista della comunicazione, però poi bisogna passare dallo slogan ai fatti. Ecco, lei ne ha visti, perché io ho raccontato, lei insieme all'ex senatore Salvi scrisse questo libro Il costo della democrazia, che è stato considerato l'antesignano della lotta alla casta dopo il ben più celebre, insomma, come è successo la casta di Stella e Rizzo. No, prima per la regina, voi, non dopo. Voi lo scriveste prima, però Che tipo di resistenze, quando si parla di palude, parrucconi, a che cosa si allude? A cosa allude Renzi? Ce la racconti praticamente, se hai anche degli episodi da raccontarci, pratici. Ma veda, io non credo che Renzi pensi davvero di andare impugnando la mazza da baseball per gli uffici a sfasciare tavoli e sedie, perché non credo che servirebbe. E il nostro amico ascoltatore, mi pare di capire, fa il dirigente nella vita reale, quindi sì. Lui ci potrebbe dire che quando si vuole avere un risultato in realtà ci sono fattori diversi, lo dicono i manuali, cioè bisogna motivare, bisogna organizzare, bisogna dare risorse, bisogna dare regole adeguate, quindi l'intervento su una pubblica amministrazione è una cosa complessa, appunto non è che si entra urlando in un ufficio e la gente scatta tutti attenti, non è così. E Renzi ha bisogno di avere qualcuno, il nemico di fronte, no? Quindi adesso è il burocrate quello che gli impedisce di rendere il cittadino felice e contento, però poi bisogna capire, se io dico che una scuola non funziona, no? Faccio pensare che sia popolata di docenti scazzafatiche, però uno la scuola la fa funzionare se ha docenti motivati, si ha strutture adeguate, se non ha le classi di 35 studenti, se ha le risorse per il dopo scuola, se ha le risorse per fare i questo sì, ma mi faccia capire, se per esempio sui giornali appaiono le foto, come nei giorni scorsi, non so, il presidente della Corte Costituzionale che guadagna 1600 euro al giorno, il segretario generale della Camera che guadagna 1309, ecco, queste sono pericolose personalizzazioni, oppure no. Si coglie un problema vero, che è quello che cogliemmo da tanti anni fa, Salvi e io, è di una degenerazione veramente tutta italiana, cioè noi non abbiamo avuto la fuga in avanti di una fascia dorata di super stipendi, quando diciamo si sono dissolti i partiti, si è passato da pubblico a privato per pezzi importanti della pubblica amministrazione soprattutto, e quando si sono creati soggetti che in realtà sono pubblici, vivono di denaro pubblico ma agiscono come se fossero privati, è scomparsa, diciamo, la fascia alta, è scomparsa dalla visibilità, la fascia alta delle retribuzioni di cui prima si parlava e che era prima oggetto di scelta politico-legislativa. E allora la trattativa per il super stipendio del super manager è andata in un cono d'ombra che ha come dire favorito il lievitare di quelle retribuzioni. Ed è successo per una fascia consistente, diciamo, di super burocrati, di altissimi dirigenti, e per cui abbiamo che i nostri giudici della Corte guadagnano tre volte quelli. Ma come si ferma tutto questo? Perché la domanda la pongo anche a lei, visto che è la domanda che mi ossessiona, cioè che tipo di arma può avere Renzi per fermare tutto questo? Cioè, non è che... Su questo Renzi ha fatto una cosa che io condivido perfettamente, che cercammo di fare anche io e Salvi nella finanziaria del 2007, cioè? L'ultima finanziaria con Prodi, che era quello di mettere un tetto agli stipendi, ai mega stipendi pubblici, che allora individuammo nello stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione, che adesso Renzi ha individuato il presidente della E non si è mai applicato, cioè perché? No, perché questo è un paese, ma sa contro chi dovemmo combattere noi quando facemmo quella battaglia? Contro tutti lobby che si scatenano, perché poi questo è un paese in cui c'è la lobby della Banca Italia, c'è la lobby della RAI, capisce che la lobby c'è anche adesso, non è che è arrivato Renzi e le lobby scompaiono, anzi si compatteranno e faranno una battaglia più dura. Sì, ma io non credo che la partita sia ancora chiusa, però questa volta, siccome c'è stata una violentissima crisi, il paese è diventato più consapevole e le cose se ne è parlato di più, e allora poi è cambiato il governo, perché il nemico sa dove era quando facemmo la battaglia Salvi nel 2007, 2008, 2006, quei due anni nel governo. Il nemico era a Palazzo Chigi, perché poi le lobby arrivano direttamente a Palazzo Chigi, perché quando la politica, come ha fatto ieri Renzi, nomina i mega manager, li nomina perché li conosce, perché ci sono rapporti, perché c'è una rete, diciamo così, che porta la nomina di Tizio, di Caio, di Pincopallo, e poi quando Pincopallo si vede tagliare il portafoglio, ovviamente chiama il suo sponsor politico, l'amico, il sodale, dice ma come, tu mi vuoi mandare in miseria? E quello è il nemico arriva nella stanza. Infatti è il nemico che bisogna capire come Renzi, che lo ha identificato, invece riuscirà a sconfiggere. Io intanto la ringrazio, Massimo Villone, professore oggi alla Federico II di Napoli e ex senatore, scrisse con Cesare Salvi Il costo della democrazia tanti anni fa. Allora ci fermiamo qui con Elisabetta Fusconi, Alessandro Marco Tulli e Miriam Lucchetti in redazione, con il nostro alpino Peter Bescapè in regia. I nostri contatti sono i soliti: Twitter 24 mattino è il profilo ufficiale, il mio personale invece Alino Milan, e ci trovate così anche su Facebook, e potete anche riascoltare tutti i podcast su radio24.it, molto molto semplice. Abbiamo anche la mail, 24 mattino @radio24.it. Ci troviamo domani alle 6:30 puntuali.